Oh, un pezzo nuovo. Chiediti perché scrivo ancora e ancora, nonostante il fiato mi si spezzi nella gola. Non mi fotte un cazzo se mi apprezzo o mi disprezzi, perché ora sta roba viene su quasi da sola. Chiediti perché scrivo ancora e ancora, nonostante il fiato mi si spezzi nella gola. Non mi fotte un cazzo se mi apprezzo o mi disprezzi, perché ora sta roba viene su quasi da sola. Mi muovo nel contrasto, amplifico i miei termini e trovandomi costretto li abbandono. Quando sarò al termine descriverò il devasto. Adesso io assaporo questo suono, rileggo nel mio suono il frutto d'ogni passo. Ogni volta che ho pensato di essere giunto alla frutta come un pasto, era solo una barriera che ora è andata distrutta. Ho respirato, mi sono gettato capofitto, ho sconfitto il mio abisso, traendone profitto più del guasto dell'incasto. Mastico parole ogni boccone, mi convinco che sono solo all'antipasto. Nello stesso istante in cui il solito cazzone che si crede nato imparato risulta troppo scarso. Il fatto che non creda di saper rappare, più che un limite al mio margine per migliorare la capacità di edificare un testo che rimanga impresso nella mente di chissà, assaporare il flusso. Per questo ora per lustro la profondità del mio odio. Odio. Chiediti perché scrivo ancora, ancora e ancora, nonostante il fiato mi si spezzi nella gola. Non mi fotte un cazzo se mi apprezzo o mi disprezzi, perché ora sta roba viene su quasi da sola. Chiediti perché scrivo ancora, ancora e ancora, nonostante il fiato mi si spezzi nella gola. Non mi fotte un cazzo se mi apprezzo o mi disprezzi, perché ora sta roba viene su quasi da sola. Come ci fessoci qua, ciò che fatto è fatto. C'è chi ha fatto il gradasso e non ha concluso un cazzo. C'è chi è stato zitto preparandosi al sorpasso, chi ha fatto mille live imparando a star sul palco. C'è chi ha fatto centro, chi lo sta aspettando, sta facendo centro, chi ha dato tempo al tempo, ma per chi sta ciarlando? Sta ciarlando. L'oste chiede il conto del momento dell'incasso. A Dio ho rivolto sempre una preghiera breve, rendili ridicoli, lui mi sta ascoltando, ridicoli. Sta gente qua si persa nella neve, ridicoli, peccato che per ridicoli, loro non sia conto San Bernardo. Io continuo a scrivere, ho fede in chi ci crede, ma sono sempre meno, quasi non li si vede. Sti padri pellegrini sono già morti, ancora cercano l'erede, io penserò a tenere le mie redini. Siediti e riposati che è tardi, sei stanco, non te ne rendi conto ma sei stanco. Francato dal tuo compito, intanto goditi la pensione, porteremo in giro una generazione. Chiediti perché giro ancora e ancora, nonostante il fiato mi si spezzi nella gola. Non mi fotte un cazzo se mi apprezzo o mi disprezzi, perché ora sta roba viene su quasi da sola. Chiediti perché scrivo ancora e ancora, nonostante il fiato mi si spezzi nella gola. Non mi fotte un cazzo se mi apprezzo o mi disprezzi, perché ora sta roba viene su quasi da sola. Ah!